Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Quattordicesima puntata. Finché la vocetta diceva «Ehi, Auxilio, penso che me ne andrò». «Dove?» le chiedevo io. «In un altro sogno», diceva lei. «Quale sogno?» le dicevo io. «Uno qualunque», diceva lei. «Qui muoio di freddo». Quest'ultima cosa la diceva con un tono così sincero che io cercavo il suo volto nella neve. Quando finalmente lo trovavo, il suo visetto suonava come una poesia di Robert Frost, che parla della neve e del freddo, e mi faceva molta pena, perché la vocetta non mentiva ed era vero che si stava congelando, poverina. Così la prendevo fra le braccia per riscaldarla e le dicevo «Vai pure via quando vuoi, non c'è problema». Avrei voluto dirle altre cose, ma mi uscivano solo queste frasi piuttosto antipatiche, e la vocetta si muoveva fra le mie braccia come la peluria di un maglione d'angora. Un maglione d'angora che non pesava nulla e faceva le fusa come i gatti del giardino di Remedio Sparo. E quando ormai si era riscaldata, io le dicevo «Vai, è stato un piacere conoscerti, vai via prima di congelarti un'altra volta». E la vocetta lasciava le mie braccia, ma era come se mi uscisse dall'ombelico e se ne andava senza dire addio, né ciao, né niente, cioè se la filava all'inglese, da bravo angelo custode dei sogni argentino. E io restavo sola, a riflettere come una pazza, e a forza di pensare arrivavo alla conclusione che in sostanza l'unica cosa che la vocetta era riuscita a strapparmi erano sciocchezze. «Hai fatto la figura della cretina», mi dicevo ad alta voce, o cercavo di dirmi ad alta voce. E dicevo cercavo, perché in effetti cercavo di aprire la bocca, non so se mi spiego, di modulare le parole in quelle solitudini nevose, ma faceva talmente freddo che non riuscivo nemmeno a muovere le mascelle, così credo che in realtà quel che volevo dire mi limitavo a pensarlo, benché i miei pensieri fossero assordanti. O così mi sembrava su quelle cime nevose, come se il freddo, mentre mi ammazzava e mi addormentava, mi stesse nel contempo trasformando in una specie di Yeti, una donna delle nevi, tutta muscoli, peli e vocione, anche se naturalmente sapevo che era solo una scena immaginaria e che io non avevo muscoli né pelame per proteggermi dalle raffiche gelate. E anche che la mia voce non si era affatto trasformata in quella specie di cattedrale autonoma e autosufficiente, e l'unica cosa che faceva era formulare una sola domanda, priva di sostanza, vuota, insonne. Perché? Perché? Fino a quando le pareti di ghiaccio si spaccavano e cadevano con grande fragore mentre se ne alzavano di nuove, come nascoste dalla polvere che sollevavano i crolli, e così non c'era modo di far nulla. Era tutto immutabile, era tutto irrimediabile, era tutto inutile, persino piangere. Perché su quelle cime nevose la gente non piange, fa solo domande. Questo lo scoprii con stupore. Alle altezze di Machu Picchu non si piange. O perché il freddo colpisce le ghiandole che regolano le lacrime, o perché lassù anche le lacrime sono inutili, il che, comunque la si veda, è il colmo. Così me ne stavo lassù, cullata dalla neve e pronta a morire, quando all'improvviso sentii che qualcosa gocciolava e mi dissi «Non può essere». Ho di nuovo le allucinazioni, sull'Himalaya non gocciola niente, è tutto congelato. Bastò quel rumorino per non farmi cadere nel sonno eterno. Aprii gli occhi e cercai la sorgente del suono. Pensai, si starà scongelando il ghiacciaio? L'oscurità sembrava quasi assoluta, ma non tardai a scoprire che erano solo i miei occhi che tardavano ad abituarsi. Poi vidi la luna ferma su una piastrella, Una sola piastrella, come se mi stesse aspettando. Io ero seduta per terra con la schiena appoggiata alla parete. Mi alzai. Il rubinetto di uno dei lavandini dei bagni delle donne al quarto piano non era chiuso bene. L'aprii del tutto e mi bagnai la faccia. La luna allora cambiò piastrella. In quel momento decisi di scendere dalle montagne. Decisi di non morire di fame nel bagno delle donne. Decisi di non impazzire. Decisi di non diventare una mendicante. Decisi di dire la verità anche a costo di farmi segnare a dito. Cominciai a scendere. Ricordo soltanto il vento gelido che mi tagliava la faccia e la luce della luna. C'erano rocce, c'erano gole, c'erano come delle piste da sci post-nucleari. Ma io scendevo senza badarci troppo. Da qualche parte nel cielo si stava preparando una tempesta elettrica, ma io non ci badavo troppo. Io scendevo e pensavo a cose allegre. Pensavo ad Arturito Belano, per esempio, che da quando era tornato a Città del Messico aveva preso a uscire con altra gente, non con i giovani poeti del Messico, ma con ragazzini più giovani di lui, mocciosi di 16, 17, 18 anni. E poi aveva conosciuto Ulysses Lima e aveva cominciato a ridere dei suoi vecchi amici, me compresa, a fare loro grazia della vita, a guardare tutto come se lui fosse Dante. O fosse appena tornato dall'inferno, che dico, Dante, come se fosse Virgilio in persona. Un ragazzo così sensibile aveva cominciato a fumare marijuana, detta comunemente erba, e a mandar giù sostanze che preferisco non immaginare. Ma in fondo, lo so, era ancora simpatico come sempre. E così quando ci incontravamo per puro caso, perché non uscivamo più con le stesse persone, mi diceva «Come va, Auxilio?» o mi gridava «Soccorro!» dall'altro marciapiede di Avenida Bucareli, facendo salti come una scimmia con in mano un taco o un pezzo di pizza. E sempre in compagnia di quella Laura Jauregui, che era la sua fidanzata. Ed era bellissima, ma era anche superba quant'altri mai. E di Ulysses Lima. E di quell'altro ragazzino cileno, Felipe Müller. E a volte mi facevo coraggio e mi univo al gruppo, ma loro parlavano inglillico. Anche se si vedeva che mi volevano bene, si vedeva che sapevano chi ero, ma parlavano inglillico. E così è difficile seguire i meandri e le peripezie di una conversazione, il che alla fine mi faceva riprendere il mio cammino nella neve. Ma nessuno pensi che ridevano di me. Mi ascoltavano. Io però non parlavo il glillico e quei poveri ragazzini non riuscivano ad abbandonare il loro gergo. Quei poveri ragazzini abbandonati, perché era questa la loro situazione. Nessuno li amava o nessuno li prendeva sul serio. Oppure a volte avevi l'impressione che fossero loro a prendersi troppo sul serio. E un giorno mi dissero «Arturito Belano se n'è andato dal Messico» e aggiunsero «Speriamo che stavolta non torni». E questo mi fece molta rabbia, perché io gli avevo sempre voluto bene e credo di aver insultato la persona che l'aveva detto, almeno mentalmente. Ma prima ebbi il sangue freddo di domandare dove era andato. Non me lo seppero dire. In Australia, in Europa, in Canada, in uno di quei posti. E io allora mi misi a pensare a lui, mi misi a pensare a sua madre, così generosa, a sua sorella, ai pomeriggi in cui facevamo le empanadas a casa sua, a quella volta che io avevo preparato gli spaghetti e per farli asciugare li avevamo appesi da tutte le parti, in cucina, in sala da pranzo, nel salottino che si affacciava su calle Abram Gonzales. Io non riesco a dimenticare nulla. Dicono che è questo il mio problema. Io sono la madre dei poeti del Messico. Io sono l'unica ad aver resistito dentro l'università nel 1968, quando entrarono i reparti antisommossa e l'esercito. Io sono rimasta da sola in facoltà, chiusa in una toilette, senza mangiare per più di 10 giorni, per più di 15 giorni, dal 18 al 30 settembre, non mi ricordo più. Sono rimasta lì, con un libro di Pedro Garfias e la mia borsa, nient'altro. Vestita con una camicetta bianca e una gonna plissé celeste. E di tempo ne ho avuto d'avanzo per pensare e ripensare, ma non potevo pensare ad Arturo Belano perché allora non ci conoscevamo. Io mi dicevo a Auxilio Lacouture: resisti. Se esci ti arrestano. E probabilmente ti deportano a Montevideo, perché, come è logico, non hai i documenti in regola, cretina. Ti sputano addosso, ti fanno nera. Così mi disposi a resistere. A resistere alla fame e alla solitudine. Dormii le prime ore seduta sul water, lo stesso su cui mi trovavo quando era iniziato tutto, e che nella mia debolezza pensavo mi portasse fortuna. Ma dormire seduta su una tazza è scomodissimo. E finire annicchiata sulle piastrelle. Feci dei sogni. Non erano incubi, ma sogni musicali. Sogni di domande trasparenti. Sogni di aerei affusolati e sicuri che attraversavano l'America Latina da un capo all'altro in mezzo al cielo azzurro splendente e freddo. Mi svegliai intirizzita e con una fame da lupo. Guardai fuori dalla finestrella del bagno, e vidi la mattina di un nuovo giorno e pezzi di campus come pezzi di un puzzle. Quella prima mattina la passai a piangere e a ringraziare gli angeli del cielo che non avessero tagliato l'acqua. «Non ti ammalare, Auxilio», mi dissi. «Bevi tutta l'acqua che vuoi, ma non ti ammalare!» Mi lasciai cadere a terra, la schiena appoggiata alla parete, e aprii di nuovo il libro di Pedro Garfias. Mi si chiusero gli occhi. Probabilmente mi addormentai. Poi sentii dei passi e mi nascosi nel mio cesso. Quel cesso è l'ufficio universitario che non ho mai avuto. Quel cesso fu la mia trincea. È il mio castello di Duino, la mia epifania del Messico. Poi lessi Pedro Garfias, poi mi addormentai, poi mi misi a guardare fuori attraverso una finestrella rotonda e vidi nuvole altissime e pensai ai quadri del dottor Atle e alla regione più trasparente. Poi mi misi a pensare a cose belle. Quanti versi sapevo a memoria? Mi misi a recitare a memoria quelli che ricordavo e mi sarebbe piaciuto poterli scrivere. Avevo una penna a sfera, ma non la carta. Poi pensai: cretina, ma se hai la carta migliore del mondo a tua disposizione. Così strappai un pezzo di carta igienica e cominciai ad annotarli. Poi mi addormentai e sognai... che risate! Juana de Barburu. Sognai il suo libro, La rosa dei venti, del 1930, e anche il suo primo libro, Le lingue di diamante. Che bel titolo, splendido. Quasi come se fosse un libro d'avanguardia, un libro francese scritto l'altro ieri, ma Juana d'America l'aveva pubblicato nel 1919, cioè all'età di 27 anni. Che donna interessante doveva essere allora! Con tutto il mondo a sua disposizione, con tutti quei gentiluomini pronti a obbedire elegantemente ai suoi ordini. Gentiluomini che non esistono più, benché Juana esista ancora. E con tutti quei poeti modernisti pronti a morire per la poesia, con tutti quegli sguardi, con tutte quelle galanterie, con tutto quell'amore. Poi mi svegliai, pensai: il ricordo sono io. Ecco cosa pensai. Poi mi riaddormentai, poi mi svegliai e per ore, forse giorni, piansi per il tempo perduto, per la mia infanzia a Montevideo, per volti che ancora mi turbano, oggi mi turbano addirittura più di prima, e dei quali preferisco non parlare. Poi persi il conto dei giorni che avevo passato rinchiusa. Dalla mia finestrella vedevo uccelli, alberi o rami che si allungavano da posti invisibili, cespugli, erba, nuvole, muri, ma non vedevo gente né sentivo rumori e persi il conto del tempo che avevo passato rinchiusa. Poi mangiai carta igienica, forse ricordando Charlot, ma solo un pezzettino. Il mio stomaco non ce la faceva a mangiarne dell'altra. Poi scoprì che non avevo più fame, poi presi la carta igienica su cui avevo scritto e la gettai nel water e tirai la catena. Il rumore dell'acqua mi fece fare un salto e allora pensai che ero perduta. Pensai, malgrado tutta la mia astuzia e tutti i miei sacrifici, sono perduta. Pensai, che gesto poetico distruggere i miei scritti. Pensai, sarebbe stato meglio ingoiarli, ora sono perduta. Pensai, la vanità della scrittura, la vanità della distruzione. Pensai, è perché ho scritto che ho resistito. Pensai, è perché ho distrutto quello che ho scritto che mi scopriranno, mi picchieranno, mi stupreranno, mi uccideranno. Pensai, i due fatti sono collegati, scrivere e distruggere, nascondersi ed essere scoperta. Poi mi sedetti sulla tazza e chiusi gli occhi, poi mi addormentai, poi mi svegliai. Ero tutta piena di crampi. Mi mossi lentamente, mi guardai allo specchio, mi pettinai, mi lavai la faccia. Ah, che brutta faccia avevo! Come quella che ho adesso, per darvi un'idea. Poi sentii delle voci. Credo fosse molto tempo che non sentivo nulla. Mi parve di essere Robinson che scopre le orme nella sabbia, ma le mie orme erano una voce e una porta che si chiudeva di colpo. Le mie orme erano una valanga di biglie di pietra lanciate all'improvviso nel corridoio. Poi Lupita, la segretaria del professor Fombona, aprì la porta e restammo lì a fissarci, tutte e due a bocca aperta, ma senza riuscire ad articolare parola. Dall'emozione, credo, svenni.